Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuta a una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è La Bella e la Bestia, film del 1991 ed è considerato il 30° classico Disney. La storia è basata sull'omonima fiaba di De Beaumont, da cui deriva anche un film prodotto nel 1946. Infatti il film della Disney ha anche alcuni temi presi dal film del 1946. La trama è ambientata nella Francia del Settecento e vede come primo protagonista un giovane principe che per la sua cattiveria è stato trasformato in bestia. Questo incantesimo è sancito da una rosa e la fata, diciamo, che lo trasforma in bestia gli dice che se non riuscirà a trovare il vero amore prima che la rosa sfiorisca, lui rimarrà bestia per sempre. Quindi l'unica speranza di questo principe, che adesso è una bestia, è di trovare il vero amore e soprattutto di passare quindi tutta la sua vita relegato nel castello insieme agli abitanti che anch'essi sono stati trasformati in degli oggetti animati. Nel vicino villaggio vive Belle, figlia di un inventore che è una ragazza molto intelligente ma annoiata dalla vita del villaggio e soprattutto annoiata dalle avance di Gaston, che è un rozzo cacciatore. Un giorno il padre di Belle, in viaggio per una fiera di inventori, si perde e finisce nel castello della bestia che lo terrà prigioniero. Belle, per andare in ricerca del padre, finisce anche lei nel castello e si propone come volontaria per essere presa come prigioniera al posto del padre. La bestia intravede quindi un barlume di speranza, magari qualcosa che lo possa aiutare a spezzare l'incantesimo. Durante la sua prigionia, anche se inizialmente fra Belle e la bestia c'è molto attrito, infatti Belle a un certo punto scapperà ma verrà salvata dalla bestia, nascerà un sentimento fra i due. Però Belle è molto preoccupata per il padre. Infatti il padre, tornato al villaggio, viene considerato pazzo da tutti, perché lui racconta appunto la storia della bestia e di come Belle è stata rapita da essa. Quindi Belle, molto preoccupata, vuole tornare al villaggio e la bestia, innamorato di lei, decide di lasciarla andare. Solo che, tornata al villaggio e scoperta l'ubicazione della bestia, gli abitanti decidono di partire per una rivolta violenta verso il castello. Belle e il padre vanno anch'essi al castello per salvare la bestia e la trovano sulla torre più alta del castello insieme a Gaston, che lo vuole ferire a morte. Gaston poi precipita nel burrone, però la bestia è ormai morente e proprio prima di morire dichiara il suo amore a Belle, che anch'essa lo ricambia. Di conseguenza l'incantesimo è spezzato e infatti l'ultimo petalo della rosa cade poco dopo la loro dichiarazione d'amore. Così l'incantesimo si spezza, la bestia ritorna principe, tutti gli abitanti del castello ritornano nelle loro condizioni umane e la storia finisce con un lieto fine. Il racconto della Bella e la Bestia è stata idea per un film per molto e molto tempo. Inizialmente la Disney ha voluto creare un cartone su questo racconto proprio fra gli anni 30 e gli anni 50, però la storia era molto difficile da rielaborare. E solamente negli anni 90 sono riusciti a tirare fuori un film che tra l'altro sarà un capolavoro per gli studios, perché riusciranno a fatturare più di 400 milioni di dollari. Il film ha inoltre alcune scene in CGI, come già precedentemente, ma in questo caso saranno molto più importanti perché riguarderanno proprio la scena clou del film, ovvero il ballo fra la Bella e la Bestia. Il CGI verrà utilizzato soprattutto per ricreare la sala da ballo. La colonna sonora sarà molto molto importante, tant'è che riuscirà a vincere anche il premio Oscar per la miglior colonna sonora e il film avrà anche una nomination come miglior film negli Oscar del 1992. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.